24 di Giovanni Minoli. Sono con Carlo, sono con te, sono qua a Sanremo, non potrebbe essere diverso il bilancio che è positivo. Internetology, soci onorari. È arrivato il direttore generale della Rai. Buonasera a tutti. Antonio Campo Dall'Otto, che insomma è un'occasione buona per commentare degli ottimi risultati della Rai, questi, dei buoni indici d'ascolto. Più che buoni, sono eccezionali. Allora, stasera io mi schiero non dalla parte del sindaco, ma di sicuro dalla parte della donna. Je suis patata bollente. E allora vince la 67esima edizione del Festival di Sanremo con Occidentali Scarma, Francesco Buongiorno, bentornati a Mix24, è finito dunque in gloria il Festival di Sanremo e dopo la grande e legittima soddisfazione la Rai deve però fare i conti soprattutto con le ultime polemiche legate ai mega stipendi delle star pubblicate dai giornali e pubblicati proprio alla vigilia del rinnovo della concessione del canone in esclusiva proprio alla Rai. Ecco, Michele Anzaldi, deputato del PD, membro della Commissione Vigilanza della Rai, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, senta, prima di tutto, l'ha visto Sanremo? Le è piaciuto? Sì, ne ho visto un po'. Sanremo è Sanremo, un successo di pubblico. Vabbè. Sì. Senta, però, Maria De Filippi, che è il simbolo di Mediaset, che diventa il simbolo del più importante spettacolo della Rai, non le sembra un po' la fine della distinzione dei ruoli tra servizio pubblico e televisione commerciale? Sanremo è una festa, una festa di unificazione, è già avvenuto in passato, ad esempio con Bonolis, la stessa Geppi Cucciari, è una festa, tant'è vero che in quella settimana, e si vede anche dagli ascolti, c'è una specie di armistizio, canale 5 non fa niente, le altre canali Rai non fanno niente, appunto è una cosa una di pace, unificazione. Una pace a reti unificate, come lo dimostra, diciamo, anche la canzone che ha vinto, visto, sì, un momento di allegria. Sì. Se mi posso permettere, invece, questo momento di allegria, secondo me è stato turbato, guastato, proprio da questo, perché ad esempio la De Filippi si è messa in discussione un nuovo modo di vestire, un modo di presentare, sì, diverso, cioè abbiamo visto cose nuove. Il problema, se tu utilizzi questa grande vetrina che ti offre il paese, perché a quel punto, appunto, se c'è un armistizio del paese, lo utilizzi per fini personali o per lanciarti altre cose, e addirittura non presentando in tutto questo nulla di nuovo, io sono rimasto, devo dire, un po' amareggiato e stupito dell'accanimento di Crozza. Per 4 serate ha fatto sempre la stessa cosa, che è la stessa cosa che fa faceva prima. È quella che sa fare, evidentemente quella che sa fare. Ma allora non vieni a presentare lì, fra altre cose pagato, penso, perché come dice lui, sono genovese, non vengo gratuitamente. Sì, no, lui non va. È stato al limite dello stalker, mi scusi, e ha fatto ogni giorno Renzi e Gentiloni, è arrivata a dire che in 3 anni non è stato fatto niente. Le cose che si fanno a Renzi forse è che ha fatto troppo. È arrivato a fare la parodia del Presidente della Repubblica, non c'era nulla di nuovo. Però io invece penso che Maria De Filippi, che supera le distinzioni in modo così, sarà pure una festa, però è come se Higuaín potesse giocare praticamente un giorno, una domenica nella Juve, una domenica nel Napoli. Non è un po' così? Sì, è un po' così, ma sa, questo, appunto, va bene, come dicevo, l'Italia va bene. L'Italia va bene, però come abbiamo detto, cioè io l'ho pure denunciato in questi giorni. Adesso diciamo che questo è un modo all'italiana di fare inciuci. Diciamo, Sanremo a reti unificate è un po' come l'anticipazione del futuro politico del paese. Potrebbe essere letto anche così, che dice? Ma sì, potrebbe. potrebbe essere letto così. Il problema è se vi è un guadagno di alcuni o uno sfruttamento di alcuni di una parte del servizio pubblico, o se invece è una cosa per portare allegria e far migliorare per tutti una trasmissione. Senta, Anzaldi, lei da sempre è uno dei primi che ha denunciato lo spadroneggiare in Rai, per entrare nel concreto, degli agenti tipo Caschetto e altri, cioè uomini che fanno e disfano i palinsesti. Ma è normale? È normale, è normale in questa Rai dove appunto non vi è controllo, dove si può iniziare il Festival di Sanremo dicendo che si ringrazia il concorrente che ti ha prestato crozza. È normale dove fai queste cose, dove ti lanci la trasmissione, eccetera. È normale dove non vi è controllo. Io da tempo lo denuncio. Ma lei nella sua denuncia alla commissione di vigilanza sull'elenco degli artisti, dei giornalisti, di cui Caschetto agente, per denunciare cosa? Per denunciare questo? Io ho denunciato quello che vedo, io guardando la televisione, perché mi obbligano a vederla come commissione di vigilanza, certo. Ho notato che un libro veniva lo stesso libro veniva presentato sulla stessa rete in soli 20 giorni due volte, e quindi c'è qualcosa di anomalo. Quindi, facendo degli incroci, ho visto che chi presenta il libro fa parte della scuderia di questo manager, il libro lo scrittore di questo libro fa parte della stessa scuderia, eccetera. Allora, se la cantano e se la suonano. Senta, ma proprio in questi giorni sono stati pubblicati, però questo è un fatto pubblico, i cachet di alcuni volti noti della Rai. Senta qua. Ok. Compensi troppo alti in tempi di spending review. Nel secondo semestre 2016 il direttore generale Campo Dall'Orto ha firmato 129 contratti per 340 milioni di euro. I compensi dei conduttori, secondo la stampa, ammontano per Michele Santoro a 2,7 milioni per tre programmi, 3 milioni per due anni ad Antonella Clerici, 460.000 euro a stagione a Lucia Annunziata, un minimo garantito di 1.800.000 euro a Bruno Vespa. E via discorrendo, ce ne sono tanti altri, ma il fatto che esterni alla Rai, a parità di lavoro, forse meno, sono strapagati più degli interni, c'ha senso? Cioè, faccio un esempio, un tot di 1.000 euro abbiamo sentito per fare un'intervista settimanale e 230.000 euro al direttore del TG1, che senso ha quella proporzione? Non ha senso, però questo governo, diciamo, e la commissione di vigilanza, approvando gli indirizzi del governo, da sempre ha detto che doveva finire questo. Però continua, però questo sta continuando. Non solo continua, ma continua in peggio. Mi sembra che migliora addirittura. No, ma noi abbiamo puntato tutto su taglio degli stipendi, sacrifici per tutti quelli che possono farli, cioè quelli sopra una certa soglia, e massima trasparenza. Questi stipendi o queste cose che lei ha citato adesso è la stampa che li ha pubblicati, la stampa. Ma pure la denuncia. Sì. Ma perché si continua a non seguire qual è l'orientamento del governo. Questo è il governo che ha levato il segreto di Stato. Senta. E loro non dicono se è vero o no, si stupiscono che escono gli stipendi. Quindi la denuncia è sul fatto che sono usciti, non sui numeri. I numeri sta lì. Nessuno li contesta. Se il governo dice che ci deve essere un tetto, e c'è il tetto per i ministri, c'è il tetto per i politici, c'è il tetto per chiunque, e dice lo deve applicare pure la RAI, lo deve applicare pure le star addirittura, e si fa finta di niente. Senta, lei in un'intervista a chi le faceva notare che il direttore generale della RAI aveva un curriculum di tutto rispetto, parlo di Campo Dall'Orto, lei ha risposto che a guardare il curriculum anche Schettino aveva un grandissimo curriculum, ma non è servito a evitare la tragedia degli scogli del Giglio. Ecco, oggi a metà mandato di questa direzione, che giudizio dà? Io ho risposto, a dire la verità, realtà che avevamo scelto in base al curriculum ed era il meglio che c'era e quel curriculum è ancora un super curriculum. A me l'ha mandato, io non sono contento perché non tiene fede alle indicazioni che gli dà la vigilanza, il governo, il paese, cioè è uno spreco infinito, gliel'ha detto il Cantone, gliel'ha detto il Tribunale del Lavoro, si continua ad andare così. Ecco, però, gliel'ho chiesto perché non solo lei, ma anche il ministro Calenda, il ministro dello sviluppo, più volte ha sottolineato che per avere in esclusiva i soldi del canone, la RAI avrebbe dovuto presentare un piano editoriale. Lei questo piano editoriale ha letto? Ma il piano editoriale, fino adesso si sono viste solo linee guida. Io vedo la realtà. Passato questa un anno RAI, e mezzo. Ma guardi la realtà, al di là del piano editoriale che ce lo possono mandare, ci piace e ce lo incorniciamo, la realtà è questa RAI non ha informazione, questa è la RAI che ha chiuso Ballarò, che ha chiuso Scala Mercalli, che ha mandato via Porro, che il giovedì non serviva a niente, non l'informazione il giovedì e poi ha rimesso il giovedì. E poi questa è la RAI che sull'informazione. Vabbè, ma le scelte del palinsesto, mandato via Porno, mandato via uno, poteva anche valutare, fare una valutazione dei programmi, mandato via, sa quanti ne ha mandati via la RAI prima, dopo, durante, te lo dico per esperienza. No, ma io dico mandato via intendo chiusura del programma, non è che io ho a cuore un giornalista, anche se è vero che lei investe su un giornalista da zero, lo fa diventare famoso e poi lo lascia alla concorrenza, non è il massimo della vita. Ma parlando di informazione, anche il piano di informazione, dopo le dimissioni di Carlo Verdelli, per quanto ne so, non se ne ha più traccia. Lei, voi ne sapete qualcosa in commissione? Noi ci ha presentato, come le dicevo, anche lì delle linee guida. Il problema è che quello di prima, che è stato approvato all'unanimità, sia dal CDA passato, sia dalla Commissione di Vigilanza, un grande lavoro, quello ci certificava che avrebbe prodotto 70 milioni di risparmio l'anno. E quindi bisogna partire da quello. Questo quanto ci farà risparmiare? Questo, da quello che abbiamo visto, ci farà spendere di più. Quello ci dimostrava che i direttori da 24 sarebbero scesi, i vice direttori da 24 scendevano a 10. Oggi sono già 26. Noi siamo riusciti ad aumentare di due vice direttori. Vabbè, adesso questo è un dettaglio. Senta, quest'anno la RAI ha incassato più di 2 miliardi dal canone, che sono soldi degli italiani, perché anzi è una riforma fiscale, forse la prima riforma fiscale che è stata fatta, quella del canone in bolletta. Qual è la garanzia di controllo su come sono spesi questi soldi? Prima di tutto bisogna vedere quanti gliene daremo di questi cifra. Vabbè, è questo, dipende da voi. No, quello è quello che è stato raccolto, poi il Tesoro deciderà quanti dargliene, non lo so. Perché gli italiani ora come ora hanno visto, grazie ai giornalisti, come gli sprechi continuano e senza nessuna rotta. Quindi può darsi che gli vengano dati molto meno? Ma io spero che vengano dati il giusto per capire che cosa ci fa, che cosa fa, che cosa c'è di servizio pubblico in questa RAI. Ah, lo chiedo a lei. Ma io non lo trovo, se lei vuole vedere qualcosa di interessante deve andare, perché che trasmissioni dove deve andare lei per vedere qualcosa di interessante? Sky Arte sta lì e non sta in RAI, perché Master Photo sta in Sky e non sta lì? Perché Minoli sta di là e non lì? Perché Renzi, se deve dire una cosa, deve andare alla 7? Perché l'SMS di Renzi è andato da Floris? Senta, la RAI ha 15.000 dipendenti, 1.580 giornalisti, più di 2.000 collaboratori esterni. Ma se le produzioni sono fatte quasi per l'80% di quello che va in prime time all'esterno, questo numero di queste persone che fanno? Di queste persone, il problema secondo me è che queste persone non andrebbero aggiornate, andrebbero utilizzate meglio. Come lei sa, ci sono una marea, è venuto fuori quando abbiamo obbligato a pubblicare gli stipendi sopra i 200.000, c'è una marea di persone strapagate, ferme, ferme, perché nei vari giri. Ma è possibile che tra tutti questi non ci siano persone di qualità per fare la televisione e bisogna per forza andare all'esterno? Ma no, chiaramente ci sono, chiaramente ci sono. Se poi vuoi avere il meglio in assoluto, secondo me basterebbe affiancarle per un breve periodo con una consulenza esterna che non è di livello giornalistico, ma può essere appunto lo scenografo, ma è una tantum. Poi una volta che hai aggiornato, fatto, capito il sistema, basta. Senta, onorevole Anzaldi, si è parlato di mettere a gara una piccola quota del canone recuperato dall'evasione nell'interesse del sistema generale per mettere in concorrenza pubblico e privato verso la qualità. Lei è favorevole? Io sono favorevolissimo, questa è un'idea sua che io più volte pubblicamente ho detto che è una bella idea, perché aiuterebbe a diffondere le tematiche di servizio pubblico non solo in Rai, in tante altre televisioni, ci permetterebbe così di infiltrare il bisogno di informazione pubblica anche in altre televisioni che sono strettamente commerciali. Senta, di dare un po' di ossigeno a delle televisioni che devono lottare sul mercato. Senta, e tante altre cose. Senta, onorevole Anzaldi, per chiudere, il PD è a una svolta, oggi ci sarà la direzione, poi si vedrà cosa capita, però questa svolta non potrebbe cominciare anche dalla RAI, dandole un mandato chiaro e definito prima di rinnovare la concessione? Quello senz'altro, ma se chiede a me ancora più chiaro, lo dovrebbe dare al direttore generale e al CDA, ma ce l'hanno chiaro, il problema è se lo vuoi attuare o non lo vuoi attuare, perché non mi si può dire che io in qualunque campo, da quello professionale, da quello economico, da quello è come commissario, come io sono addirittura segretario della commissione di vigilanza, non l'ho detto in tutte le lingue, non ho più dove andarlo a dire, il problema è se lo vuoi fare o non lo vuoi fare. Allora, lei parlava degli stipendi, sì. Ma mi spiega, se lì la stessa commissione, un giorno sei giornalista, un giorno sei artista, un giorno fai il contratto da giornalista, un giorno lo fai da artista, è chiaro che allora lei c'ha un direttore del TG1 che fa, o del TG2 che fa 11 edizioni con l'osservatorio di Pavia che lo a monitorare, l'Agicom che lo monitora, io, tutti i partiti guadagna niente e gli altri guadagnano di più. Senta, ma l'altro è artista, sei giornalista. Un'ultimissima cosa, ma risposta telegrafica, perché ci chiede un nostro ascoltatore, è normale che la RAI abbia 14 canali? Non è normale, non potrebbe essere normale, non è normale perché non c'è niente di questi, perché oltre i primi 4 canali, se vuole, noi non sappiamo neanche cosa c'è. Va bene. E non ci fa niente di notevole, Sky ne ha moltissimi, però grazie. Ognuno eccelle in qualcosa. Grazie onorevole Anzaldi, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms Pietrangelo? Eccolo. Oh yeah. Allora? E allora la paglia e il fuoco oggi camminavano insieme fischiettando per ingannare gli uccelli preoccupati di quello strano comparaggio. Se ne stavano silenziosi in attesa di scorgere le vampe. Ha chiamato Apollo, ha voluto questo brano con un messaggio. La parola, solo la parola, e al contempo paglia e fuoco. Mario, la tua bolla in Italia. Portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Vabbè, restiamo in Italia, ma con Finardi e l'extraterrestre. In fondo ci sta questa canzone. Adesso vediamo anche perché. Vabbè, oggi è Big Day, no? È il grande giorno, la direzione del PD fila le edicole per questo grande appuntamento di cui gli italiani sentivano il bisogno. Allora, dimissioni, congresso, elezioni anticipate. Questo è il filotto che vorrebbe tentare Renzi. Il vorrebbe è ovviamente più che mai d'obbligo in questo caso. Ci riesce? Non lo sappiamo. Sappiamo però alcune cose, che se ci riesce è il terzo governo che il PD suicida, perché questo poi è, cioè Letta Renzi se stesso, Gentiloni. Sarebbe, diciamo così, abbastanza, non dico singolare, ma raro, perché insomma non è che succede tutti i giorni questo. C'è stata il casus belli, quale sarà per far, diciamo, per fare questo operazione? È l'Europa. L'Europa, dai. Le tasse, dice Gentiloni, deve mettere le tasse, deve fare questa manovra da 3,4 miliardi, basta con l'austerità e così via. Ok, io sto sempre, come dire, attento ai numeri. E allora, facciamo un riepilogo della politica economica di Renzi negli ultimi 3 anni. Il governo italiano ha ottenuto flessibilità dalla UE per 19 miliardi, sì. Insomma, poi l'austerità. Okay. Il rapporto debito-PIL è là, 132%, è il livello inferiore solo a quello della Grecia. Il prodotto interno lordo del 2016 è pari a più 0,8. La media della crescita europea è più 1,8, cioè il doppio. La Spagna, sottolineo la Spagna, ha messo a segno uno spettacolare più 3,2%. Ricordo il nostro, 0,8. L'Italia è il paese d'Europa che è cresciuto meno nell'Eurozona. Sarà colpa dell'Europa, mentre gli altri crescevano. Nell'ultima manovra di Renzi ci sono 120 provvedimenti di spesa, classificati tra l'altro dal Sole 24 Ore, ricordiamo, certo. E da qui al 2019 ci sono impegni di spesa per un totale di 44,3 miliardi di euro. Spesa. Non investimenti, spesa. Il tasso di disoccupazione dell'Italia è il 12%, in Germania è il 5,9%, in Francia è il 9,6%. Il tasso di interesse sui titoli di Stato italiani a 10 anni oggi è oltre il 2%. I nostri titoli di Stato pagano l'interesse più alto, ancora una volta dopo quelli di Grecia e Portogallo. I conti del governo Renzi hanno sballato di 3,4 miliardi. Ognuno sono giudichi i numeri. Salamino. Con la pioggia e con il vento, chi è che bussa al convento? Come rivelato dal cacciatore di notizie di politica numero uno, ovvero Giuseppe Alberto Falci, Angelino Alfano, ministro degli esteri. Ministro degli esteri in giro qua e là per il mondo, dietro la lavagna, davanti alla lavagna, in ogni cancelleria. Caro Giovanni, ha incontrato diplomatici, premier, statisti, capi di Stato, fuochisti, tutti interessati soltanto ad uno. E tutti che domandavano e mandavano saluti a uno, solo a uno. A chi? Tutti dicono I love you a Silvio Berlusconi e Angelino Alfano. Come rivelato appunto dal grande Falci e poi ripreso da tutti i giornali senza che lo citino, con la scusa di portare i saluti del mondo al cavaliere, l'ha buttata lì, caro Giovanni, per farsi riprendere da zio Silvio, perché i 29 senatori di Area Popolare non ne vogliono sapere di tenere bordone a Matteo Renzi o di andare alle elezioni. Tutti vogliono tornare a casa in tutta fretta dal biscione che li aspetta. Ma già l'asse del nord, cioè gli agguerriti Toti, Brunetta, Romani, Santanchè e compagnia cantante, dicono no, perché il ragionamento qual è? Col 2% del, come si chiama, dell'NCD di Angelino perdiamo molto di più. E anche Pier Ferdinando Casini ha, che ha un suo partito, dobbiamo stringere? Va bene, stringiamo immediatamente. La morale qual è? Il cavaliere Silvio è come il cavaliere nero, quello che leva di mezzo il cavaliere bianco. Allora Matteo Salvini tenga di conto tutto ciò, perché è andato via Follini, è andato via Casini, è andato via Fini, è andato via Quagliarella, è andato via Bocchino, la Russa, Fitto, gli ha tornato pure la fronte interna, il Giglio di Francesca Pascale, poi il cantante Apicella, Emilio Fede, Ucanuzzo, tutti fuori, perché il cavaliere nero è... Sti tre figli sfidano il cavaliere nero, ma il cavaliere nero da ammazza tutte e tre. Ma sti tre figli c'erano tre figli per uno. Tutte e nove te sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero ti ammazza tutte e nove. Ma sti nove figli avevano tre figli per uno. Tutte e 27 ti sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero ti ammazza tutte e 27. Ma sti 27 figli avevano tre figli per uno. Basta, dimmi la morale. E che il cavaliere nero lui è di cacca. Dopo il giornale radio racconteremo la storia incredibile di Oleg Gordievskij, agente del KGB, ma soprattutto una spia al servizio dell'Occidente con il compito di raccogliere informazioni sull'odiato nemico, l'Unione Sovietica. Una storia davvero appassionante. Per chiudere, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi conosce l'inutile volteggiare degli uomini. Mina, volami nel cuore. Non è possibile, io non ci sto. È troppo stupido quello che fai. Ti prego, non andare via per un paio di occhi chiari. Forse ora lei magari sì, ma poi ti butta via.